Allora, è un progetto ormai vecchio, io dico quasi 30 anni, ed è circa 15 anni che in qualche maniera sono iniziati i lavori. È un sottoattraversamento ferroviario di circa 7 chilometri con un doppio tunnel e una stazione sotterranea. È un'opera, che lo capite, è estremamente impattante e molto costosa. Quando si va sottoterra, quando si scavano gallerie, è sempre un problema. Quando si scavano gallerie in ambiente urbano è ancora più problematico. La prima opposizione che abbiamo fatto a questo progetto è stata soprattutto perché ci siamo resi conto della sostanziale inutilità di un'opera tanto grossa e costosa. Si parla di 1.600.000.000 di euro. C'erano e ci sarebbero ancora soluzioni di potenziamento delle linee di superficie per un costo di circa 200.000.000 di euro di più, se si vogliono fare altre aggiunte, ma insomma, l'ordine di grandezza è quello, e con 200.000.000 di euro si rimedierebbero tutti i problemi del trasporto ferroviario nel nodo di Firenze. Quindi l'opposizione è sotto questa. I problemi ambientali che questo progetto pone sono grossi, sono soprattutto due, ce ne sono tanti, ma ve ne dico sostanzialmente due. Il primo è l'impatto sulla falda, che c'è già nel luogo dove dovrebbe sorgere la stazione, perché sono state realizzate delle paratie, cioè delle mura sotterranee profonde 40 metri. E queste hanno già impattato la falda a Firenze è fra i 5 e i 15 metri, quindi è una diga sotterranea lunga 550 metri che crea un dislivello. Gli ultimi rilevamenti rispetto alla norma erano un dislivello di circa 1,5 metri. I sistemi per mitigarlo funzionano poco perché appunto non si va sotto 1,5 metri. Gli altri rischi sono quelli che quando si scava una galleria in ambiente urbano, cioè in un ambiente, cioè un terreno alluvionale come quello di Firenze, che è sostanzialmente argille, sabbie, ghiaie, è facile si abbiano cedimenti in superficie. Questi cedimenti non sono naturalmente uniformi e che succede? Questi cedimenti provocano un forte stress negli edifici che sono sulla verticale e questi stress poi si trasformano ovviamente in danni. Quello che abbiamo visto facendo vedere il progetto ai nostri esperti è che tutte le previsioni delle ferrovie sono estremamente sottostimate, per cui avremo sicuramente problemi grossi durante lo scavo. Fra l'altro è stato fatto un errore secondo noi gravissimo e anche secondo molti esperti abbiamo contattato, perché di solito queste doppie gallerie vengono realizzate contemporaneamente con due frese, con due talpe, insomma con due macchine. Qui invece ne viene usata una sola e questo provocherà danni ulteriori, perché nel passaggio della seconda galleria, per lo scavo della seconda galleria, il terreno non è più omogeneo, quello originario, e questo provocherà cedimenti superiori del circa 50%. Insomma, si parla di, le ferrovie stesse parlano di 300 edifici a rischio vuol dire parecchie migliaia di appartamenti a rischio danni. E speriamo siano solo danni. Ecco, fra l'altro il lavoro del comitato va avanti da appunto più di un decennio, da 15 anni. Varie sono state le fasi, addirittura ci sono state delle inchieste, ci sono state le sospensioni dei lavori per infiltrazioni mafiose e quant'altro, grandissimi dubbi sull'utilità di una stazione decentrata, però nonostante questo la politica va avanti come un treno, mi verrebbe da dire. Sì, allora il problema è veramente, noi ci stiamo chiedendo all'interno nostro di quali sono i motivi dopo un ritardo, veramente un ritardo spaventoso. Questo manufatto doveva essere pronto già 4 anni fa e se ne parla fra 10 anni, se va bene. E ci domandiamo come mai tanta insistenza. Tempo fa il presidente dell'Associazione Nazionale Anticorruzione, Cantone, parlò di accordi diabolici che ci potrebbero essere dietro questo progetto. Non lo sappiamo quali sono ovviamente questi accordi diabolici perché non lo possiamo sapere, ma certamente cioè, andare contro qualunque forma di razionalità in questa maniera vuol dire che ci sono degli interessi non confessati che urgono. Noi sospettiamo che qualcosa sia venuto fuori, insomma, per esempio, lei ha citato ci sono due inchieste che sono venute fuori nel 2013 su questi lavori. Uno, per esempio, riguardava lo smaltimento delle terre di scavo e sono state smaltite dalla Camorra, che ha fatto ci ha fatto grandi profitti a Camorra, e ci hanno fatto profitti anche le imprese che hanno affidato loro queste terre inquinate, questi rifiuti, perché hanno speso meno nello smaltirlo. Queste terre, vi ricordo, sono state smaltite in terreni agricoli, in Mugello, in alcuni campi vicino a Scarperia, e questa naturalmente li ha rovinati, cioè gli renderà non coltivabili per non si sa quanto tempo, parecchi decenni, sicuramente parecchi decenni. Questo è il livello. Poi Ecco. c'è una cosa nuova, queste inchieste sono state molto importanti e vengono completamente dimenticate perché hanno fatto vedere come il sistema proprio dell'affidamento dei lavori di questo progetto, ma che è comune anche ad altri progetti, è veramente criminogeno. Anche questa parola criminogeno non ce la siamo inventata noi, è sempre dello stesso Cantone. Questi sistemi veramente invitano le mafie, invitano le cose peggiori a emergere. Ed è sì, anche per questo che vengono sotto attraversamenti o comunque le linee TAV vengono inserite all'interno della grande categoria delle opere inutili e dannose. E vediamo un po' il territorio fiorentino che ha un bel palmare su tutto questo, visto anche insomma, la tranvia, che cosa è stata, visto anche l'aeroporto, quello che si propongono di fare. Intanto noi ti ringraziamo e non so se hai da sponsorizzare alcuni appuntamenti futuri promossi dal Comitato. No, attualmente non stiamo promuovendo, faremo iniziative sicuramente, faremo iniziative, attualmente non abbiamo ancora date, abbiamo fatto il presidio ieri e vediamo cosa succede. Adesso stiamo soprattutto studiando le variazioni del progetto, perché le intenzioni sono di ripartire con questi lavori e secondo noi anche questi nuovi aggiornamenti del progetto non sono sufficienti a tranquillizzarci. Ecco, noi possiamo intanto dare la piattaforma del Comitato No Tunnel TAV di Firenze, che è notavfirenze.blogspot.com, così come un'ampia documentazione si può trovare sulle pagine, sul sito di Per un'altra città, che è appunto dove io ho trovato anche tutti i vari progetti alternativi a quella che è la stazione Foster e il sottotraversamento. Noi possiamo solo ringraziarti, Tiziano. Figuratevi, grazie a voi dell'attenzione e grazie a chi ci ha ascoltato con pazienza. Bene, ciao, a presto.